passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, il numero verde SMS 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i telegiornali appena andati in onda TG2. Eluana raggiunta dal padre a Udine, alimentazione ridotta fra 2 o 3 giorni, poi sospesa, potrebbe sopravvivere 2 settimane. Il Vaticano, rispetto per la famiglia, ma è inconcepibile ucciderla così. Consigliere comunale della Margherita ucciso a Castellammare di Stabia nel Napoletano, Luigi Tommasino colpito dai killer davanti a un negozio, illeso il figlio di 13 anni. Ancora maltempo, piogge raddoppiate a gennaio rispetto a un anno fa, crolla una strada in Liguria, emergenza frane in Calabria, sono 300 i comuni coinvolti. I giudici rumeni riaffidano alla madre il piccolo Gratian, 4 anni, sfruttato e costretto all'accattonaggio dalla famiglia in Italia. Il rimpatrio era stato autorizzato dal nostro Tribunale dei Minori. Bene, andiamo subito a sentire anche i titoli di Studio Aperto. Al nostro telegiornale lo sfogo della mamma del 16enne accusato di essere il capo del branco che ha dato fuoco all'indiano di Nettuno. Mio figlio è innocente, dice la donna. Quelli più grandi l'hanno fatto bere e fumare, volevano fare i guerrieri della notte. Trento, 7 studenti minorenni, tra cui una di 14 anni, marinano la scuola. La ragazza fanno bere una bottiglia di vodka e mezza di vino, poi in 3 a turno la violentano. Dopo un mese la giovane ha trovato il coraggio di denunciarli. Un errore, scarcerare i rumeni coinvolti nell'inchiesta sullo stupro di Guidonia, il ragazzo che ha confessato la violenza di Capodanno, il parere di Silvio Berlusconi, che in un'intervista a Studio Aperto parla anche della riforma della giustizia, mentre sul governatore Soru afferma è un fallito. Castellammare di Stabia, un consigliere comunale ucciso da 2 sicari in moto, Luigi Tommasino, 42 anni, politico della Margherita, era in auto col figlio 13enne, illeso il ragazzo, il padre è morto sul colpo. Ecco l'ultima campagna shock firmato Oliviero Toscani, Monica Guerritore, Nadia Ricci, la figlia del fotografo, tutte guarite dal tumore, posano nude per la campagna della Fondazione Veronesi. L'obiettivo è ambizioso, ridurre a 0 entro 10 anni il numero delle vittime del cancro al seno. Bene, i titoli principali di Studio Aperto li avete appena sentiti, numero di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, il doppio binario di Berlusconi, da sempre, lo sapete, contro la carcerazione preventiva, non si ricordano le sue intemerate, le sue frasi contro l'uso della carcerazione, o meglio contro l'abuso della carcerazione preventiva da parte dei giudici. Eppure, siccome la questione degli stupri è molto popolare, sentitelo dire sui romeni, ma anche sullo stupratore di Capodanno, insomma, dovevano restare in carcere, i giudici hanno sbagliato a scarcerarli. Nessuno può essere in disaccordo e nessuno può restare insensibile a questo grido di dolore che è venuto dai genitori dei ragazzi di Guidonia. Lo stupro è un delitto imperdonabile, esecrabile e quindi credo che nella coscienza di tutti siano da considerarsi degli errori le decisioni del GIP di Roma e dell'altro GIP che anche in altro caso ha liberato dopo appena 20 giorni un ragazzo che aveva commesso uno stupro. Occorrerebbe che davvero i giudici applicassero le leggi e che quindi tutti i cittadini sentissero che la pena è una certezza e non qualcosa che può in certi casi essere obliterato. Questo Berlusconi, a quelli che sono indignati per la scarcerazione dei romeni a Guidonia, vorrei chiedere, vi indignate anche per questo? Leggo oggi da alcuni titoli di giornale, ecco gli sbandati fuori dopo 2 mesi, l'inferno del Barbone, l'hanno bruciato vivo e non sono più in cella. Andrea Severi, dato alle fiamme in novembre a Rimini, ancora sotto shock, lo sogno ogni notte. Mi sono svegliato con le fiamme, no? Davanti agli occhi l'ho visto. Io dormivo. Stavo dormendo su una panchina e poi sono andato a fuoco. Per la prima volta, parla Andrea Severi, il clochardato le fiamme da quattro ragazzi di Rimini. Dal suo letto del centro Grandi Ustionati di Padova racconta di quella sera del 10 novembre scorso. Questo non lo so come è successo. Non ho sentito nessuno io. Non c'era nessuno davanti a me. Mi sono buttato per terra e ho spento le fiamme, no? Chiedevo aiuto. L'abbiamo fatto per gioco, hanno poi ammesso i quattro ventenni. Tre di loro sono ora costretti 24 ore su 24 ad aiutare senza tetto e poveri in alcune comunità. Ancora in carcere Alessandro Bruschi, il ragazzo che sparse la benzina e diede fuoco al barbone. Non ci sto, ha detto la sorella della vittima a Mattino 5. Non è giusto che questi ragazzi siano stati mandati in una comunità e che secondo me la devono pagare per quello che hanno fatto. Andrea Severi ha già subito diverse operazioni, non ha mai accusato i ragazzi, che pure hanno confessato, non può ancora camminare e non lascerà presto l'ospedale. Solo che purtroppo non mi possono andare dal letto. I miei muscoli si sono indeboliti e mi giro la testa. Il PM che segue l'inchiesta si chiama Davide Ercolani e difende la scelta che avete sentito che riguarda tre dei quattro reo confessi. Non sono a casa nella bambagia, lavorano tutto il giorno, devono pulire il sedere a gente che sta male, la loro è una condizione severa. La via delle pene alternative è stata sollecitata anche dal governo in carica. Se ne è parlato in Commissione Giustizia e numerosi esperti ci hanno dato ragione. Andiamo a sentire quello che succede alla Camera, dove c'è stata grande bagarre per quello che riguarda l'approvazione, è passata solo alla Camera, della legge con lo sbarramento per le elezioni europee al 4%. Sentiamo prima questa bagarre in aula col presidente Fini, che è costretto a un certo punto a interrompere la seduta. Una legge elettorale europea con lo sbarramento così come oggi proposto. In tale occasione ci saremmo opposti con determinazione a... Prego. Prego i commessi di provvedere allo sgombero delle tribune riservate agli ex deputati, grazie. Prego. Beh, insomma, c'erano gli ex deputati, quelli esclusi dalle elezioni ultime, dalle politiche, che volevano trovare una rivincita alle elezioni europee, i cosiddetti nanetti. Ma siete dei nanetti! Eccoli qui, sentite. I piccoli partiti rimasti fuori dal Parlamento contro lo sbarramento del 4% alle europee rischiano di restare fuori anche da Strasburgo. Sotto il Quirinale, il Comitato per la Democrazia, da Mastella a Ferrero, tutti i piccoli del centrosinistra. Ci rivolgeremo al Tribunale Ordinario perché viene leso un principio fondamentale, se non basta anche alla Corte Costituzionale perché viene leso l'articolo 48 della Costituzione italiana. Il voto deve essere libero, segreto e uguale. È evidente che i più grandi si mettono d'accordo per far fuori tutti gli altri. Ma non è un'esigenza reale evitare... E dunque... Rivolta in nome della democrazia. Naturalmente prosegue la nostra campagna su Dateci Battisti. Nome? Cesare Battisti. Sono ricercato da mettere in prigione a vita. Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia? Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione. Ma tu hai ammazzato quattro persone? Falso. Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti? Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale. Dateci Battisti. Mandate una mail di protesta all'ambasciata brasiliana info@ambrasile.it oppure una lettera all'indirizzo Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma. Bene, 18:47, l'avvocato Oreste Dominioni, presidente dell'Unione Camere Penali. Buonasera. Buonasera. Avvocato Dominioni, da una sua denuncia nasce un'inchiesta su Di Pietro, che è iscritto nel registro degli indagati, atto dovuto dopo appunto la denuncia. L'ipotesi è la violazione dell'articolo 278 del Codice Penale, offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica dopo il comizio di Piazza Farnese a Roma. Le voglio fare subito questa domanda. Perché lei ha presentato denuncia? Che cosa l'ha animata? Ha animato me, l'Unione delle Camere Penali, l'esigenza che segnasse un altolà ad una progressiva quanto inconcepibile e alla fine illegittima aggressione istituzionale, fino a colpire inopinatamente la suprema carica dello Stato. Però mi perdoni, le parole di Di Pietro sono molto controverse. Lo stesso Di Pietro dice sono state manipolate, sono state trasformate dalla stampa in un attacco a Napolitano. In realtà la parola "il silenzio è mafioso" non si riferiva a Napolitano. Lei è cosciente di tutto questo, della reazione di Di Pietro, che ha anche detto porterò 200.000 testimoni, l'avvocato Dominioni si brucerà col suo stesso Cerino, eccetera eccetera? Ma io non ho nessun problema di bruciarmi con un Cerino o altro. Io, come tutti, abbiamo letto tutta la stampa che ha registrato le dichiarazioni di Di Pietro. Sulla base di queste dichiarazioni penalmente rilevanti, abbiamo ritenuto di prendere la nostra iniziativa. Se l'onorevole Di Pietro ritenga che quelle frasi non le ha mai pronunciate, e allora deve fare delle rettifiche alla stampa senza fare troppo fumo. Beh, lui dice che si difenderà in tribunale perché le accuse sono sbagliate, poi vedremo naturalmente. Però dov'è secondo lei l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica? In quale frase esattamente l'avete riscontrata? Laddove la stampa registra dichiarazioni dell'onorevole Di Pietro che contesta al Presidente della Repubblica silenzi e poi assimila questi silenzi a silenzi stampo mafioso. Però mi perdoni, non voglio fare l'avvocato di Di Pietro, però accusare il Presidente della Repubblica di silenzi non è ledere al suo onore o al suo prestigio? No, è l'assimilazione successiva. Quello però Di Pietro lo nega, lei dice vedremo in tribunale. Se lo nega vuol dire che contesta tutta la stampa che ha viceversa registrato queste sue dichiarazioni. Se io fossi stato in Di Pietro, un secondo dopo avrei fatto immediatamente delle smentite. Cosa che secondo lei non ha fatto. Vabbè, lo vedremo. Non le ho lette. Anzi, ha detto che non si riferiva a Napolitano. Ecco. Senta, avvocato Dominioni, le chiedo un'ultima cosa. È però una critica, secondo me, molto fondata, molto forte. Ed è questa: si parla tanto di ingolfamento della giustizia, di tribunali che sono sovraccarichi, eccetera, eccetera. Anche qualche ascoltatore ci ha scritto un sms di questo tenore. Perché avventurarsi in una causa di questo tipo con una denuncia così? Non è un ulteriore ingolfamento dei tribunali? Ma sa, è una denuncia singola. Rispetto all'ingolfamento dei tribunali non credo che determini niente. Quanto ingolfamento determina invece che si deve reagire fortemente a tutela della legalità e contro una politica, una concezione della giustizia e quant'altro. Una concezione che ritiene che possano essere aggredite anche le più alte cariche dello Stato, illecitamente in questo caso, pur di contrastare una riforma della giustizia che in base a concezioni autoritarie si vuole contrastare. Vabbè, insomma, secondo lei c'è un'aggressione nei confronti delle più alte cariche dello Stato, questo a prescindere dalle valutazioni sulla riforma della più alta carica dello Stato. Le chiedo davvero un'ultimissima cosa, che è questa: il Quirinale è informato di questa iniziativa? L'avete informato prima oppure avete fatto da soli? L'abbiamo fatto da soli, non ci permetteremmo mai di interpellare il Quirinale su nostre iniziative, in quanto abbiamo un rispetto assoluto e non vogliamo fare i difensori d'ufficio di nessuno, vogliamo solo tutelare la legalità delle istituzioni di fronte alla mancanza di reazioni da parte di una politica troppo timida su questo terreno. Senta, un ascoltatore mi scrive, lo dica che Dominioni è l'avvocato della famiglia Berlusconi, perché anche lo stesso Di Pietro dice, un ascoltatore che si firma Lionello, anche lo stesso Di Pietro dice Dominioni agisce perché qualcuno gli dice di agire in questo modo. Sì, questa direi, come definirla, una stupidaggine. Ed è un modo per palesare come si concepiscono i propri ruoli anche pubblici rispetto alle proprie attività. Io in un comunicato di oggi ho detto ho onorevole Di Pietro abbia un occhio molto più attento ai suoi clienti, fra parentesi. Adesso che, non mandi messaggi un po' strani. Perché ancora una volta la stampa non menta. A chi si riferisce quando dice clienti? Perché siamo abituati politici, ai messaggi diretti. Politici, le cose di cui abbiamo letto tutti sulla stampa. Ma insomma, le cose dell'Italia dei Valori, degli affari interni. Ma si occupi di queste cose. Va bene. Avvocato Dominoni, la ringrazio. Grazie. Mi restano molti dubbi sull'efficacia di questo tipo di iniziative dal punto di vista penale. Poi ognuno può fare quello che vuole, le denunce che vuole, naturalmente. Per il principio di cui sopra, forse perché insomma ne abbiamo fin troppe di queste cose che secondo me inceppano un po' la giustizia. Ma lei è di un'opinione diversa e naturalmente siamo qui per discutere. 18:54, Rolando da Torino, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì, sì, la sento. C'è allora, un ascoltatore che mi scrive: perché lei difende così a spada tratta Di Pietro? Io non sto difendendo nessuno, sto cercando di capire da dove nascono alcune cose, come potrebbero andare a finire, se sono utili o no. Prego, Rolando, dica. Allora, io vorrei prendere come punto di riferimento, diciamo, il caso che si è verificato in Inghilterra. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che si parla di che loro sono specializzati. Allora, in tante aziende italiane si parla del fatto che gli italiani sono molto specializzati, allora? Sì, per carità, però io lavoro in un'azienda come tante altre aziende in Italia, si verifica assumono nei paesi dell'est, questo è un dato di fatto. Allora, nei paesi dell'est li portano in Italia a lavorare, sì. Questi qui non pagano tasse, non fanno consumismo, si prendono i loro soldi e se ne vanno a casa loro. Qui e nella mia azienda si sta verificando che tutti i contratti a termine li stanno lasciando a casa. Cioè lei vuole dire quello che succede in Inghilterra in scala ancora maggiore, con conseguenze ancora più negative per i lavoratori italiani, esiste anche in Italia. Almeno loro dicono: ah, sono specializzato, hanno vinto il concorso lì, hanno vinto l'appalto, sì. Allora già mi potrà anche star bene. Ma insomma, però lei approva questa rivolta sindacale che c'è in Inghilterra oppure la biasima? Ma a un certo punto, perché poi siamo tutti operai che lavoriamo per Guerra tra poveri, dice lei. Io penso di sì, che ci stanno mettendo a questi livelli qui, questo glielo dico e lo affermo, perché io vedo nella mia azienda uguale, ci stanno mettendo l'uno contro l'altro. Ho capito, la ringrazio Rolando, la ringrazio. Giorgio da Bergamo, Giorgio buonasera. Buonasera. Dica. Niente, due cose velocissime, una su Di Pietro, la prima volta che ho sentito le sue dichiarazioni, sì. Il silenzio l'ho attribuito a Di Pietro. Gli basterebbe anche solo fare un'analisi logica del periodo. L'analisi logica sulle frasi di Pietro, sì, mi sembra un po' troppo. È un po' dura, però io l'ho capita che lui diceva: io non sto in silenzio e dico. Che si può anche criticare. Sì, guardi, siccome il silenzio all'inizio lo riferiva a Napolitano, ma insomma è inutile addentrarci in questi dettagli. No, questa come prima impressione. Seconda cosa velocissima sullo stupro, una mia disinformazione. È ancora reato alla morale o l'hanno passato reato alla persona? Perché se fosse ancora reato alla morale, scaldarsi così tanto, però poi non fare niente, mi sembra. A chi si riferisce? No, dico su tutto il caso degli stupri. Sì. Non mi ricordo se è passato da poco reato alla persona o è ancora un reato contro la morale. Ma no, un reato contro la morale, non è certamente un reato contro la persona. Giorgio, di che stiamo parlando? Ma è da poco diventato reato contro la persona. No, ma da diversi anni. Qual è il punto? Cosa vuole dire? Niente, era solo una mia disinformazione, ho chiesto conferma. La ringrazio. Subito i titoli del TG3. Eluana Englaro trasferita in clinica d'Udine, i medici chiedono silenzio e rispetto, la CEI no, l'eutanasia, fini rispettare la volontà della famiglia. Napolitano, il caso Englaro non c'entra con l'eutanasia, ma ora serve un dibattito sereno in Parlamento sul testamento biologico. Berlusconi, sbagliano i giudici che scarciano gli stupratori, contro la crisi un piano da 40 miliardi, botta e risposta con Renato Soru. La Camera verso il voto sulla legge elettorale, contro lo sbarramento protestano i piccoli partiti, Veltroni scelta chiara ed utile al Paese. Ucciso in un agguato a Castellammare di Stabia un consigliere comunale della Margherita, colpito da due killer mentre era in auto col figlio. A Parigi si pensa ad aiuti a Peugeot e Renault solo se comprano francesi. Daewoo ferma la produzione. In Italia Indesit chiude lo stabilimento di Torino. La cancelliera tedesca Merkel chiede al Papa di fare chiarezza sul negazionismo del vescovo Lefebvriano. Finora precisazioni insufficienti. Google Earth in versione oceanica, il nuovo programma presentato a San Francisco, visualizza le mappe dei fondali e anche le onde per i surfisti. Da Sky TG24 sentiamo questo servizio sulla questione di Pietro. ...della Repubblica dopo la denuncia presentata dall'avvocato Dominioni, presidente dell'Unione delle Camere Penali e legale della famiglia Berlusconi. E di Pietro si difende. Forse la verità è molto più banale, dice. Chi ha fatto quelle denunce non intende perseguire un fine di giustizia, ma soltanto fare un favore ai propri clienti. E così torna un'altra volta il battibecco da lontano, tanto caro alla nostra politica italiana. Laura Ceccherini, Sky TG24. Bene, come avete sentito da questo servizio, Dominioni, ma io pensavo che fosse cosa abbastanza nota e anche legale della famiglia Berlusconi, questo non toglie nulla alla sua denuncia, naturalmente. Abbiamo anche detto più volte, che non mi sembra una grande iniziativa, ma la critica è avvocato di Berlusconi, allora non può parlare, mi sembra una critica assurda. Sentiamo i titoli di Sky TG24. Eluana Udine per il viaggio finale, con lei papà Beppino che dice non parlerò più. Tuona il Vaticano, fermate la mano assassina, inconcepibile ucciderla così. Napolitano, sì al testamento biologico, per fini bisogna rispettare la scelta del padre. Agguato a Castellammare di Stabia, ucciso un consigliere comunale del Partito Democratico. Accuse e offese al capo dello Stato, indagato Antonio Di Pietro. Europee, via libera della Camera alla soglia del 4%, i partitini protestano in aula. Berlusconi e l'aggressione di Guidonia, un errore scarcerare due degli indagati. A Firenze tragedia all'asilo, un bimbo muore schiacciato dall'auto della mamma. Vescovi Lefebvriani, Angela Merkel chiede spiegazioni al Vaticano. Sapessi com'è strano sentirsi di casa a Milano, Victoria Beckham, sarai felice di restare. Ebbene, abbiamo saputo che anche Victoria Beckham vuole rimanere a Milano. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta. Direi che trovo abbastanza positiva la scelta del telegiornale della 7 del silenzio stampa sul caso Eluana Englaro, su cui effettivamente si è detto ormai di tutto e non si capisce cosa si debba aggiungere. E allora ascoltiamo quella che, secondo il medico che poi sovrintenderà, staccherà materialmente forse, o comunque il capo dell'equipe medica che staccherà il sondino dell'alimentazione dal corpo di Eluana Englaro, dell'alimentazione e dell'idratazione. Sentiamo cosa ha visto, che Eluana Englaro ha visto nel trasporto dalla clinica di Lecco a Udine. Lui si chiama Amato De Monte, del medico della clinica alla Quiete. Sentite. Premetto che questa sarà la mia prima e unica e ultima intervista che rilascio sull'argomento e penso di potermi fare portavoce anche della famiglia Englaro nel reclamare assolutamente la più totale privacy in questo dolorosissimo momento. Che effetto le ha fatto viaggiare con Eluana questa notte? È stato il toccare con mano la grossa diversità che c'è stata fra il vissuto che abbiamo avuto tutti, penso, l'opinione pubblica di questa ragazza che ci è sempre stata presentata nel fiore della giovinezza, e trovarmi invece davanti a una persona che è completamente diversa dall'immaginario che penso ognuno di noi si era creato di questa ragazza. Il suo stato d'animo? Profondamente devastato, come uomo, come padre, come medico e come cittadino. Però tutto questo passa nettamente in secondo piano davanti al dolore della famiglia Englaro. Io penso che tutta la società civile dovrebbe fare un grosso ripensamento su questa tematica e soprattutto sullo scollamento che su questo problema esiste tra il sentire sociale e la posizione della politica e della Chiesa. Una delle polemiche più feroci in questi giorni è quanto soffrirà e se soffrirà Eluana. Eluana non soffrirà perché Eluana è morta 17 anni fa. Beh, mi sembra che la posizione di questo medico sia molto chiara, non è certamente una posizione neutrale tra le due fazioni che si sono create in questi mesi, negli ultimi mesi soprattutto. Avete sentito le parole molto dure innanzitutto sul fatto che Luana Englaro è già morta secondo questo medico e poi sulla posizione della Chiesa che secondo il medico sarebbe staccata dal sentire sociale. Ci sarebbe da discutere molto, ma lo lascio alle vostre considerazioni. 800 24 00 24. Torniamo sulla vicenda degli stupri e soprattutto sul caso della deputata radicale che abbiamo intervistato ieri sera, Rita Bernardini. Perché c'è stato anche oggi un ritorno su questa vicenda alla Camera dei Deputati con un deputato dell'Italia dei Valori, si chiama Pedica, che se l'è presa con Sergio D'Elia. Sentite in che modo. In questo frangente credo che ci sia stato un autogol da parte della Bernardini e da parte del Partito Radicale, cioè è fuori da ogni logica andare a trovare i carnefici e non la persona che ha subito una violenza. Dovevate andare a trovare e a portare solidarietà alla famiglia, a quella coppia che ha subito una violenza e che resterà a vita marchiata, non persone che hanno violentato e che avevano già premeditato delle violenze prima e andate a visitare chi? I carnefici. Ecco, questo mi sembra, cioè io posso capirlo, ma in quel frangente è un autogol, cioè è inaudito pensare che una Bernardini si lamenta delle minacce ricevute. Per che cosa? Per essere andata a trovare una persona che ha violentato due ragazze che resteranno incisi nella loro mente e nella loro storia. Voi non dovete andare a sostenere i carnefici, perché all'opinione pubblica, io capisco, è solo una conclusione che fanno i milioni di persone che si sono indignate per questo vostro comportamento. E sempre a questo proposito, avete sentito, non potete andare a trovare i carnefici, questo pensa l'onorevole Pedica, Italia dei Valori, che si rivolgeva ai radicali in aula e non solo all'onorevole Sergio D'Elia, che abbiamo detto prima. Dicevo che su questo tema è intervenuto oggi Berlusconi in una lunga intervista a Studio Aperto, perché c'è un doppio binario, non c'è dubbio, nelle parole di Berlusconi e nel tipo di approccio di Berlusconi, perché il Presidente del Consiglio, da che mondo è mondo, da quando è sceso in politica, è stato sempre contro la carcerazione preventiva, contro l'abuso della carcerazione preventiva. Eppure, siccome la questione degli stupri è molto calda dal punto di vista dell'opinione pubblica e soprattutto è molto popolare, una posizione dura contro chi va a visitare gli stupratori, contro le scarcerazioni, soprattutto sentite l'uscita di Berlusconi che cerca sempre di essere in sintonia con l'opinione pubblica. Nessuno può essere in disaccordo e nessuno può restare insensibile a questo grido di dolore che è venuto dai genitori dei ragazzi di Guidonia. Lo stupro è un delitto imperdonabile, esecrabile e quindi credo che nella coscienza di tutti siano da considerarsi degli errori le decisioni del GIP di Roma e dell'altro GIP che anche in altro caso ha liberato dopo appena 20 giorni un ragazzo che aveva commesso uno stupro. Occorrerebbe che davvero i giudici applicassero le leggi e che quindi tutti i cittadini sentissero che la pena è una certezza e non qualcosa che può in certi casi essere obliterato. È il momento del grande Vladimir, Paolo Guzzanti. E poi ho parlato con Putin, il grande Vladimir, il grande gelo in sala, ma come il grande Vladimir? Cioè, è una cosa veramente molto imbarazzante, io voglio dirlo, io mi sento molto imbarazzato. È intervenuto oggi a XL Paolo Guzzanti per spiegare le sue scelte, ha abbandonato la Casa delle Libertà, il Partito del Popolo della Libertà nel quale è stato eletto, ha aderito al Partito Liberale Italiano, non si è dimesso da deputato, resta anche vice direttore del giornale, in polemica con uno dei capi di Forza Italia Bondi, ma ha fatto un paragone anche questo nuovo, se volete, quello tra Berlusconi e addirittura il tiranno per antonomasia, Kim Il-sung, Corea del Nord. Molte volte nelle kermesse, nelle feste, nelle manifestazioni di Forza Italia avevo l'impressione di trovarmi al compleanno di Kim Il-sung e non in un congresso di partito. Sai, palloncini, belle ragazze con i grembiulini, bodyguards con la radiolina al collo, nulla che abbia a che vedere con un congresso di interesse, un congresso che sia un normale congresso di partito. Io sono cresciuto nei grandi partiti Il mio partito era il Partito Socialista Italiano, ma era un partito di risse, di conflitti, i giornali e i giornalisti mandavano plotoni di cronisti per sapere che vedere che cosa succedeva, ma comunque tutti i congressi in cui le posizioni si sfidavano, si confrontavano, non esisteva l'idea che se tu sei contro l'attuale segretario te ne devi andare, allora che ci stai a fare qui? Questa è una novità che è venuta appunto nel partito Kim Il-sung, che non appartiene alla tradizione della democrazia, direi poi nella tradizione di nessuna democrazia occidentale. Il partito lo chiama il partito Kim Il-sung, Paolo Guzzanti, devo dire che non è che Berlusconi sia cambiato dal 94 in poi, da questo punto di vista è sempre stato un partito incentrato sulla figura del leader, per cui non capisco la differenza che c'è tra tre anni fa o anche due anni fa o un anno fa, quando Guzzanti era certamente un filo berlusconiano, questo lo dico con tutto l'apprezzamento che ho nei confronti di Guzzanti, e gli ultimi mesi, dove evidentemente Guzzanti ha notato una deriva nordcoreana. I nanetti, sentiamo. Ma siete dei nanetti! Protestano in nome della democrazia violata per l'approvazione alla Camera dello sbarramento al 4% sulle europee. Sulle barricate c'è cioè addirittura, ma insomma addirittura non è una novità, è comprensibilissimo, anzi, perché vuole tornare in auge Clemente Mastella. È un fatto che francamente non si era mai verificato. A fine legislatura e quando già si era iniziato la procedura per le firme, per la presentazione dei candidati, si cambiano le regole in campo. Questo non è assolutamente un atto, come dire, che può essere accettato con docilità rispetto alle istituzioni. Ma insomma, l'attacco alla democrazia denunciano e viene denunciato questo attacco dall'estrema sinistra, l'estrema destra, il centro di Mastella, i Verdi, i socialisti, tutti uniti. Magari più tardi ascolteremo qualcuno di questi che abbiamo chiamato, senza disprezzo naturalmente, ma con un pizzico di ironia. Partiamo subito naturalmente con le vostre telefonate, non prima di avervi ricordato che c'è qualcosa da inviare o per posta oppure su internet. Evitate la parola vergogna, perché pare che l'ambasciata brasiliana abbia messo dei filtri, respingono le mail dove c'è scritto vergogna, utilizzate tutte le altre parole che volete. Battisti naturalmente. Nome? Cesare Battisti, sono ricercato da mettere in prigione a vita. Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia? Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione. Ma tu hai ammazzato 4 persone? Falso. Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti? Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale. Dateci Battisti. Mandate una mail di protesta all'ambasciata brasiliana info@ambrasile.it oppure una lettera all'indirizzo Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma. Eccoci qui, andiamo subito al primo ascoltatore di questa parte della Zanzara, Sergio da Monza. Buonasera Sergio. Buonasera. Io vorrei partire dalla recente polemica di Di Pietro nei confronti del Presidente della Repubblica. È stato detto Di Pietro che la polemica era sbagliata perché irrispettosa. In effetti la libertà di parola esiste, nel senso che si può dire quel che si vuole, fin tanto che non si offende qualcuno, non si dicono delle bugie. A parte il fatto che bisogna vedere dove è stato effettivamente offensivo Di Pietro in questo caso, ma non è di lui che voglio parlare, quanto del fatto che a suo tempo tre giornalisti del servizio pubblico, Santoro, Biagio e Luttazzi, furono sospesi dalle loro programmi, licenziati praticamente dalla RAI, perché erano stati, a giudizio di qualcuno, poco corretti. Non si è capito però né se fossero offensivi, sono stati offensivi, né se avessero detto bugie. In questo caso mi scusi, gentile ascoltatore Sergio da Monza, va bene qualsiasi polemica, va bene qualsiasi argomento, francamente il nesso tra i famosi casi Luttazzi, potremmo discutere per anni su Luttazzi, Biagi e Santoro, e adesso la querela Di Pietro Dominioni, non la vedo, però magari lei me lo sa spiegare meglio, mi dica. Nel senso che ci fu una levata di, non c'è stata una levata di scudi allora a favore dei tre giornalisti, mentre c'è stata una levata di scudi a favore di Napolitano, del presidente. Dov'è che vedo il... Ma sono questioni completamente diverse, sono questioni totalmente diverse, non capisco francamente non capisco il paragone. Io penso che l'iniziativa di Dominioni sia temeraria, penso che ci sia qualcosa di vero in quello che dice Di Pietro quando sostiene, ma è una cosa che lui sa utilizzare molto bene, il fatto che Dominioni puntava anche a qualche articolo sui giornali, c'è stato un articolo sul Corriere della Sera, c'è stato un articolo su Il Giornale molto ampio, due pagine, insomma un'iniziativa che ha fatto un certo clamore per un giorno o due, ma questo è legittimo e Di Pietro lo sa molto bene. Ripeto, non capisco il nesso, a parte che la levata di scudi, come dice lei, sul caso Santoro c'è stata per anni, non è vero che non c'è stata. Prego, Sergio. Non c'è stata però da parte delle istituzioni, e io dico, nel momento in cui viene meno la libertà di stampa, viene meno la libertà di parola, viene meno la libertà d'opinione, viene meno tutto. Sì, ma ecco, in questo caso dov'è la libertà d'opinione che è stata repressa? Mi scusi, nessuno nega a Di Pietro la facoltà di dire quello che vuole in un comizio, Da parte di parecchi politici c'è stata invece un'osservazione sul fatto che fosse assolutamente poco inopportuno. E non vabbè, ma c'è un giudizio sulle parole, uno dice certe parole, altri giudicano, insomma mi sembra una dialettica normale, nessuno dice che Di Pietro non può andare in piazza a dire quello che vuole su Napolitano. Su questo ha perfettamente ragione, probabilmente l'esempio non era calzante. In realtà volevo arrivare alla questione dei due pesi e due misure, riferendomi anche a quanto ha detto lei precedentemente proprio stasera su Berlusconi, cioè su quello che ha detto a proposito delle decisioni dei giudici. Beh, in quel caso, guardi, non capisco ancora una volta il paragone, e la ringrazio per questa telefonata. Ho già detto su Berlusconi come la penso sommessamente. Berlusconi è sempre stato storicamente contro la carcerazione preventiva, contro l'abuso della carcerazione preventiva. Siccome però il tema degli stupri e degli stupratori è molto caldo, Berlusconi dice è una vergogna il fatto, è assurdo che siano state scarcerate queste persone. Cosa vuole che le dica? Si tratta, secondo me, di posizioni sbagliate, sbagliatissime. Pasquale, provincia di Foggia, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Senta, a proposito degli stupri, dei vari episodi di cronaca che insomma di cui si parla in questi giorni. Semplicemente, insomma, molto brevemente, Guidonia, due dei fiancheggiatori dei quattro signori che hanno pensato bene di stuprare questa ragazza, sono ai domiciliari. Sì. Roma e l'altro ragazzo che aveva stuprato durante la festa di fine anno, questa ragazza di Roma, è ai domiciliari. Poi, passando un attimo dagli stupri ai roghi di vario tipo, tre dei quattro signori che hanno pensato bene di dar fuoco ad un clochard a Rimini sono entrati in una comunità. Guardi, so bene che esiste lo Stato di diritto, però non si riesce a capire il senso del provvedimento, il senso di questa serie di provvedimenti adottati da giudici sparsi un po' in tutta Italia. No, c'è veramente uno scollamento, no? Prima si parlava dello scollamento tra il sentire sociale, il sentire del paese reale e la Chiesa e la politica, secondo quel medico di Udine, in riferimento alla vicenda Englaro. Qui mi pare che si avverta un fortissimo scollamento tra il pensiero di un numero non indifferente di giudici ed il paese reale. Che il messaggio che si lancia sia agli immigrati, quelli che intendono, che scientemente vengono in Italia per delinquere, non per lavorare, sia ai ragazzini delle periferie, delle grandi metropoli, che intendono emulare i gesti di queste belve, sì, e venite in Italia oppure rimanete in Italia se siete italiani, fate quello che volete perché tanto vi è consentito. Questo è il paese dei balocchi, fate ciò che volete, perché tanto tra indulti, patteggiamenti, ognuno fa ciò che vuole. Allora Pasquale, mi è piaciuto molto il suo intervento, però non sono d'accordo, perché credo che i miei giudici non debbano lanciare messaggi. Abbia pazienza, si critica sempre si critica sempre il fatto che i giudici facciano politica oppure che vadano al di là dei loro compiti e poi vogliamo che lancino dei messaggi. Non capisco, come non capisco i politici che in questi giorni, ancora ieri e questa mattina in una trasmissione alla RAI, il sindaco di Roma Alemanno dice ci vorrebbero leggi più dure. Ma come? Siete in Parlamento non so da quanti anni e poi ci dite che le leggi dovrebbero essere più dure. Siete voi che dovete approvare le leggi. Non bastano quelle che ci sono, ce ne sono altre. Perché non le avete approvate prima? Sono cose che davvero non si capiscono. E poi comunque, lei lo ha detto, il problema non è la carcerazione preventiva, il fatto che i giudici debbano dare dei segnali, quanto piuttosto tutti i vari permessi che ci sono e il fatto che magari si sta più in carcere prima e dopo invece si esce con una certa facilità. La ringrazio. Gustavo da Verona, buonasera. Buonasera Cruciani, sono brasiliano, abito da sette anni in Italia e vorrei un po' raccontare come è stata la vicenda Battisti nei giornali brasiliani, come si svolge adesso il dibattito pubblico a questo rispetto. Sì, no? Lei da sette anni in Italia cosa fa, Gustavo, se posso? Io sono venuto in Italia a fare un dottorato in economia, lì ho conosciuto quella che è diventata mia moglie e adesso abito qua, abbiamo due figli, sono già cittadino italiano per questo, no? Sì. Lavoro, insomma, nell'ambito bancario assicurativo, ecco. Sì. Direi che la vicenda Battisti in Brasile è stata segnata per due fasi diverse. Prima il governo Lula, purtroppo, ha preso questa decisione, io appoggio al 100% la vostra decisione, il vostro movimento di ridateci Battisti, perché il governo Lula ha preso questa decisione contro il parere della nostra Farnesina, cioè il Ministero degli Esteri brasiliano, e contro il parere del Comitato per i Profughi sì, Politici brasiliano. Sì. No? Senta, ho letto anche dei sondaggi sui giornali brasiliani, secondo i quali addirittura l'83% dei lettori, adesso non so, della popolazione, non possiamo sì, naturalmente generalizzare, sarebbe contro la decisione del ministro della giustizia. Così anche lei ha questa impressione? Guardi, non saprei, perché appunto è stato il primo pezzo di questa polemica è stata segnata principalmente dall'articolo di due giuristi che sono stati consulenti di questo ministro. Quello che impressiona è che questo ministro non è un idiota, è un uomo intelligente, no, certo, che ha preso queste decisioni insieme a quella che sarà, io spero anche che sia, la futura presidente del Brasile. Entrambi hanno fatto parte della guerriglia urbana brasiliana negli anni 70, mentre il Brasile era una dittatura. Lei, sì, inclusive, è stata arrestata, è stata torturata, è stata in esilio. C'è stata sicuramente una medesimazione. Non sì, so, ci ricorda il nome di questo personaggio, di questa donna? Questa donna si chiama Dilma Rousseff. Sì, e che ruolo ha? Lei è ministro della Casa Civil, cioè sì, la persona sì, che fa un po' la cancelleria per Lula, presidente della Repubblica, sì, diciamo così. Tra l'altro il ministro della Giustizia, Gerro, aprendo oggi una bella analisi dell'ANSA, sì, pare che durante gli ultimi giochi panamericani a Rio de Janeiro nel 2008 ha ordinato il rimpatrio di due noti pugili cubani che avevano tentato di disertare il regime castrista. Esatto. Negando tra l'altro l'asilo politico a questi pugili e poi concedendolo a Battisti. Appunto, io gli dico che in questo primo momento, diciamo così, anche la nostra Farnesina ha messo le mani nei capelli, cosa sta facendo, anche per le pretese internazionali del Brasile, no? Sia nel G8 che nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Senta, un'ultima cosa voglio chiederle, lei ha l'impressione che ci sia stata in azione ancora una lobby molto forte, tra cui quella dell'avvocato Greenalg, se non pronuncio male, Luis Eduardo Greenalg, sì, che sì, è sì, il titolare dello studio legale di Battisti, che è uno dei fondatori del Partito dei Lavoratori del presidente Lula, una lobby di pressione molto forte da questo punto di vista che ha funzionato, diciamo di estrema sinistra per semplificare? Beh, sicuramente, guarda, loro si sono mossi prima, perciò tutti i primi articoli che sono usciti nella stampa brasiliana avevano Battisti come l'unica fonte. I giuristi, quello mi ha impressionato, che hanno servito da consulente a Tarso Genro, hanno fatto degli errori impressionanti. Il secondo momento di questa polemica è stato quando una parte parte della stampa si è svegliata, diciamo così, risvegliata per questo caso, anche dei giornalisti molto famosi di origine italiana, sì. Uno di loro è Mino Kart, lì la cosa si è svilaggiata. Io penso che adesso il governo brasiliano si è accorto della stupidaggine che ha fatto, sì. Però adesso, diciamo così, non sa come tornare indietro. Ma lei dice che Lula non sa come tornare indietro, effettivamente una delle analisi che si fanno. Chi è questo Mino Kart, mi scusi Gustavo? Mino Kart, lui è stato un direttore di redazione di una rivista e di un giornale moltissimo importante negli anni 60, 70, 80 in Brasile. E che ruolo ha adesso? Lui adesso è l'editore di una rivista che si chiama Carta Capitale, sì. Lui è genovese, sì. Io direi a voi di entrare in contatto con lui, perché lui dirà, diciamo, anche il backstage di tutte queste. E lui sta facendo una campagna, diciamo, possiamo semplificare, contro Battisti? Sì, esatto, per l'estradizione. Per l'estradizione Battisti. La ringrazio molto di questa telefonata, Gustavo. Buona serata. 800 24 0024. Abbiamo Maurizio Laudi, che è il capo della procura di Asti. Buonasera. Buonasera. Ed è un magistrato conosciuto, anche perché ha lavorato soprattutto nel calcio, è segretario di magistratura indipendente, è stato procuratore antimafia a Torino. Oggi ho letto una bella intervista sul giornale in cui la sostanza, anche se poi i titoli giornalistici naturalmente riducono molto il ragionamento, in cui Laudi dice che è stato scandaloso scarcerare le persone di cui abbiamo parlato, autori, fiancheggiatori degli stupratori, lo stupratore di Capodanno, eccetera, eccetera. Perché ha trovato scandalose queste decisioni, Laudi? Ma guardi, solo per precisione, scandaloso non è il termine che ho usato io, e come dice lei, per ragioni giornalistiche è stato messo nel titolo, ma la sostanza non cambia. Io ho manifestato un grande sconcerto rispetto a questa ammissione agli arresti domiciliari di una persona che aveva confessato un gravissimo reato come lo stupro in una fase di indagini che era ancora preliminare, in un momento in cui la persona era già stata comunque identificata dalla polizia e quindi non si può neanche parlare di una costituzione spontanea, e mi è sembrato quindi una richiesta da parte della stessa procura, cioè dell'organo di accusa, sinceramente prematura e non sufficientemente consapevole della gravità del fatto. Scusi, però il giovane di Capodanno aveva confessato. Certo, ma vede, la confessione di per sé sola non è una situazione che faccia venir meno automaticamente tutte le esigenze anche di carattere, processuale per un fatto, ripeto, di tale gravità, in cui io immagino sia necessario da parte del pubblico ministero svolgere ulteriori accertamenti, per esempio di carattere medico, sia sull'autore del reato sia sulla vittima del reato. Spero che questi accertamenti, insomma, il giudice avrà deciso in base, oltre che alle norme, ma questo mi pare evidente e scontato, oltre al fatto che riteneva gli arresti domiciliari compatibili con le indagini in corso, o no? Lei pensa che comunque sia stata una leggerezza o un errore? Mi spieghi meglio. No, guardi, io voglio dire, secondo me c'è stato, io non conosco ovviamente nel dettaglio gli atti della vicenda, del processo, quindi giudico in base a quello che, come tutti gli altri, ho letto sul giornale. Allora, io ritengo che di fronte a reati di straordinaria gravità, come uno stupro avvenuto in quel contesto, sì. In una fase di attività di accertamenti ancora iniziale, anche la confessione da parte dell'autore del reato non faccia venir meno tutte quelle ragioni di cautela che giustificano come unica misura il trattenimento in carcere. C'è anche un profilo, di serenità per la parte offesa, una parte offesa di un reato così odioso, che sa che l'autore del reato stesso gode di comunque una certa libertà, non fisica di movimento, ma comunque di comunicazione verso l'esterno, sicuramente è una parte offesa che non può essere tranquilla e serena quando viene chiamata in tribunale a rendere le sue dichiarazioni, a rendere la sua testimonianza. Allora questo vi è sembrato prematuro da parte del pubblico ministero una richiesta di arresti domiciliari in quel momento. Però io penso che queste valutazioni il giudice le abbia fatte, abbia tenuto conto della situazione della vittima, delle possibilità di pericolo per le vittime. Insomma, mi stupirebbe se non le avesse fatte queste considerazioni. Inoltre, un'altra considerazione, dottor Laudi, è questa. Insomma, la custodia cautelare, lei dice, per quello che riguarda particolari reati particolarmente gravi, deve essere tenuta in considerazione l'idea di mantenere una persona in carcere, però non è che può essere un'anticipazione della pena. No, allora una doppia risposta. Quando parliamo di giudice teniamo conto che il giudice che ha concesso gli arresti domiciliari non poteva far diverso, perché per il nostro codice, se il pubblico ministero chiede una certa misura di custodia, il giudice non può darne una più grave, anche se è convinto che sarebbe più giusto, perché questa è una regola processuale. Quindi diciamo la responsabilità nella scelta è sostanzialmente in questo caso del pubblico ministero, che chiedendo gli arresti domiciliari ha automaticamente escluso che il giudice potesse decidere diversamente. Io sono convinto che il pubblico ministero avrà valutato tutti gli elementi. Io quello che rilevo criticamente, che secondo me è stata una valutazione che non ha tenuto nel debito conto, come dire, la gravità del fatto, per i riflessi che prima dicevo, anche sulla genuinità dell'ulteriore svolgimento dell'indagine. Ho capito. Tra l'altro, lei ricorda oggi in questa intervista che nel sequestro Vergani in Piemonte nell'aprile 2007 fu catturato subito uno dei sequestratori, confessò, esatto, fece il nome dei due complici, esatto, e voi avete dato parere contrario alla concessione dei domiciliari per la gravità, per la gravità del fatto. Noi demmo il parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari soltanto al momento in cui si concluse il giudizio di primo grado, e tra l'altro devo dire che il giudice il giudice che giudicò ed emise la sentenza di primo grado fu più severo di noi, perché invece lui negò gli arresti domiciliari pur a fronte di un nostro parere favorevole. Ho capito. Laudi, secondo lei c'è troppa leggerezza, allora c'è stata troppa leggerezza, oppure sono semplicemente delle cose casuali queste scarcerazioni? C'è una tendenza a essere troppo morbida, a applicare la legge senza guardare magari la gravità del reato? Ci vorrebbe più attenzione da questo punto di vista, mi spieghi? In generale sì, voglio dire, nella giustizia penale italiana c'è una tendenza, come dire, ad una sorta di buonismo preventivo, per cui quando si deve, per esempio, quando si emette una sentenza di condanna, soprattutto in grado di appello, c'è la tendenza sempre a ridurre la pena che è stata inflitta in primo grado o a stabilire la pena partendo dal minimo previsto dalla legge, che è un atteggiamento sbagliato, perché ci sono le volte in cui è giusto partire dal minimo della pena, ci sono le volte in cui è giusto partire dalla metà o è giusto partire dal massimo. Questo in sede di sentenza, lei dice. Questo in sede di sentenza. Dal punto di vista della valutazione invece delle esigenze cautelari, sì, io credo non si può parlare di un atteggiamento generalmente buonista da parte dei pubblici ministeri o dei giudici delle indagini preliminari. Talora i giudici, secondo me, sbagliano e fanno errori di sottovalutazione, ne ho fatti tanti anch'io e ne farò ancora, ma credo che in questo caso effettivamente il pubblico ministero abbia sbagliato nel chiedere una misura attenuata di custodia di fronte a un reato di quel genere e, ripeto, in una fase iniziale delle indagini. La ringrazio, buona serata. A lei, buona grazie. Serata. Eugenio ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Grazie a lei di averci chiamato. Sinceramente io, in quanto operatore modestamente del diritto, quando sento parlare di serenità... Con che ruolo, mi perdoni, con che ruolo, Eugenio, operatore del diritto? Sono avvocato. Ha sentito Laudi, sentito Laudi, il PM, che dice per certi reati di particolare gravità concedere subito i domiciliari è un errore. Dottore, ho sentito dottor Lambi dire anche che per serenità della parte offesa sarebbe probabilmente stato il caso che il pubblico ministero avesse richiesto una misura interdittiva seria e pesante. Sì, allora cosa ha da obiettare, se ha qualcosa da obiettare? Innanzitutto che il fatto e la fattispecie di reato probabilmente la conosce bene il pubblico ministero e noi possiamo commentarla per quello che possiamo apprendere. Eh già, così. questo è sicuramente vero. Fermo questo condividendo il percorso processuale che ha fatto il dottor Landi, non posso non condividere simmetricamente quelle che sono le impressioni morali che ogni fattispecie giuridica poi porta con sé. Non mi faccio discorsi troppo da avvocato, no, però troppo tecnici, fattispecie morali simmetricamente, se no non capiamo niente. No, benissimo. Allora, che significa? Che un reato particolarmente grave deve ricevere da parte dei giudici più attenzione? Cioè andiamo al sodo, devono restare in galera queste persone? Assolutamente, c'è stato anche a Nettuno un reato gravissimo, oggi sì. Si è discusso a Velletri in carcere con molta attenzione, con molto violenza la possibilità o meno per questi ragazzi, e so che insomma si è discusso a lungo per più di 3 ore al carcere di Lazzaria di Velletri, sì. Per capire realmente qual è stato il meccanismo. Vabbè, questo d'accordo, si discute come è normale che sia. Cosa ci vuole dire lei? Che la legge è legge, dunque il PM o il GIP di Guidonia hanno giudicato sicuramente in base a cose che noi non possiamo conoscere, giusto? Assolutamente. La ringrazio, spazio ad altri ascoltatori, sempre da Roma. Carlo, buonasera. Buonasera a voi. Dica. Buonasera alla trasmissione. Io mi riferivo all'intervento che ha fatto il professor Dominioni. Ho ascoltato con attenzione e ho trovato un difetto di logica quando lui dice che le dichiarazioni di Di Pietro, che sono state registrate dalla stampa, portano a una ipotesi di accusa di vilipendio al capo dello Stato. Sì, dov'è la contraddizione? Perché lui dovrebbe fare una rettifica a mezzo stampa di quello che non ha detto. Che cosa che ha fatto, peraltro? Cioè. Sì, io mi sono trovato occasionalmente alla manifestazione perché ero lì per motivi di lavoro. Sì. E il problema è un altro, colpire o tentare di colpire attraverso le dichiarazioni che sono state registrate sui giornali è un errore logico. Se nelle parole di Di Pietro c'è un qualcosa di penalmente rilevante in questo senso, deve essere detto che le parole di Di Pietro specificamente... Scusi, sto cominciando a non capire, allora cerchiamo di capire invece qualcosa sul riassunto della giornata, dei titoli dei telegiornali. Bene, 21 minuto, TG5 titoli. Tensione e proteste durante il trasferimento di Eluana a Udine. Il padre: non parlerò più. Il Vaticano: inconcepibile ucciderla così. Mondo politico diviso. Napolitano: sì al testamento biologico. Sì della Camera allo sbarramento del 4% per le europee. Lancio di volantini in aula. Tensione nel Partito Democratico. Berlusconi a fondo su Soru. Un consigliere comunale della Margherita ucciso a Castellammare di Stabia da 2 killer su una moto. L'agguato davanti al figlio rimasto illeso. Mio figlio è innocente, sono stati gli altri 2 a trascinarlo, parla la madre del più giovane dei ragazzi che hanno dato fuoco a un senza tetto a Nettuno. Viaggio nella piattaforma in Adriatico, dove lavorano insieme inglesi e italiani. In Inghilterra nuove proteste contro l'impiego di operai italiani. Donne italiane acrobate, divise tra lavoro e biberon, ancora discriminate secondo una ricerca presentata al Senato. La Bellucci: manca rispetto. Bene, era TG5, andiamo a sentire il TG1, i titoli. Eluana trasferita nella casa di cura di Udine, i vescovi e eutanasia. Il primario: Eluana è morta 17 anni fa, il padre: non parlo più. Napolitano: colmare il vuoto sul testamento biologico, serve un dibattito pacato, sbagliati gli scioperi inglesi contro gli italiani. Europei: sì della Camera, lo sbarramento al 4%, ok dal PD, protestano i partiti più piccoli. Berlusconi: un errore liberare gli autori di stupri. Consigliere comunale del PD ucciso da 2 killer nel napoletano, era in auto con il figlio 13enne, gestiva un negozio di abbigliamento. Volo tragico per un paracadutista esordiente americano, il suo istruttore muore in volo, lui a terra portandolo sulle spalle. Donne, in bilico tra voglia di volare e frigo da riempire, Monica Bellucci al TG1, chi fa la casalinga dovrebbe avere uno stipendio. Bene, 20 e 3 minuti, 800 24 00 24. Sentiamo anche i titoli della 7 che, come vi avevo preannunciato, non hanno il caso Englaro in prima pagina, non lo presentano nemmeno nei titoli. Luigi Tommasino, 42 anni, ucciso a Castellammare di Stabia nel Napoletano, era consigliere comunale del PD. Due sicari su uno scooter gli hanno sparato 7 colpi di pistola mentre era in auto col figlio rimasto illeso. Tra poco via libera della Camera la legge elettorale per il voto europeo di giugno, già approvata la soglia di sbarramento al 4%, bagarre in aula per la protesta dei partiti minori contro l'accordo PDL-PD. Si allarga in Gran Bretagna la protesta contro l'uso esclusivo dei lavoratori italiani e portoghesi nelle piattaforme della Total. Sulla vicenda interviene Napolitano, inammissibili le proteste anti-italiane. Beckham sogna di restare al Milan, Maldini di tornare in maglia azzurra, mentre lo juventino Amauri chiede all'Italia di Lippi, il mio futuro in nazionale è con il Brasile. Bene, alle 25 minuti andiamo a sentire gli ascoltatori. Naturalmente riprendiamo con l'ascoltatore da Roma, Carlo, all'800 24 00 24. Allora Carlo, cosa ci voleva dire? Io non ho capito nulla del suo intervento precedente, forse sì, è colpa mia, però... Stavo riferendo all'intervento del professor Dominioni, sì, quando attacca l'intervento di Di Pietro. Sì, attacca, però, ha denunciato addirittura. Certo, però nella dichiarazione che ho sentito... Sì. Usa una specie di filtro dicendo che gli organi di stampa, tutta la stampa ha registrato, sì, le dichiarazioni di Di Pietro che secondo lui sono contengono vilipendio al capo dello Stato. Le dichiarazioni. Per quale motivo non deve dire gli organi di stampa hanno registrato? Perché non era presente la manifestazione? No, eppure c'è una documentazione video, sì, perfetta dove ci sono tutte le parole. Ma infatti credo che sia una posizione molto discutibile il fatto che per presentare questa denuncia, da cui poi le indagini su Di Pietro che sono partite ufficialmente, l'avvocato Dominioni dica i giornali, la stampa, tutta la stampa ha registrato in questo modo le affermazioni di Di Pietro. Detto che anche a sentire l'intervento più lungo di Di Pietro, l'intervento integrale di Di Pietro e non quello proposto dai vari telegiornali che anche noi inizialmente vi avevamo proposto, il significato è assolutamente lo stesso. Però Di Pietro dice il silenzio mafioso non era riferito a Di Pietro ma a noi, lo ha detto anche con molta forza nella trasmissione di questa mattina di Alessandro Milan. Cosa vuole che le dica? Mi sembra che si sia parlato già troppo di questa vicenda, non dell'ultima denuncia di Di Pietro ma dell'interpretazione delle frasi di Di Pietro, o sbaglio? Continuo a sentire negli interventi degli addetti ai lavori, sì, degli addetti ai lavori del pianeta giustizia, molto e troppo legalese. Non c'è nessuno che si vuole mai esporre in prima persona. Non so a chi si riferisce lei. No, genericamente tutte le volte che sento parlare di qualche cosa che ha a che fare con il pianeta giustizia, specialmente da parte di magistrati e o avvocati, non è la lingua che viene parlata in questo paese. Può darsi. La ringrazio. Marco da Bologna, buonasera. Buonasera Tursani, io la devo ringraziare perché lei mi ha fatto veramente un regalo prima. Io avevo già chiesto di parlare per esprimere la mia soddisfazione per il fatto che è stato introdotto lo sbarramento del 4% anche alle europee e lei mi ha fatto sentire Mastella. E io le giuro che ho m'ha reso felice, perché sentire veramente la classica espressione del partituccolo, dell'orticello italiano che bada soprattutto ai suoi interessi e che squitteva indispettito mi ha fatto piacere. Io auguro magari a politici di spessore come possono essere Casini e Ferrero di arrivare al 4%, ma sono veramente contento che ci sia questo sbarramento, perché entità piccole che magari proteggevano interessi particolari e si divertivano a fare indiaghi della bilancia nella legislazione precedente, che rimangano a casa, per me è un motivo di soddisfazione. Proprio volevo soltanto dire questo. Bene, la ringrazio. Registriamo questa sua repulsione nei confronti dei piccoli partiti. Marco, adesso magari l'espressione, le provocazioni vanno benissimo, l'espressione Mastella che squittiva è un po' forte, però insomma siamo anche amici e vicini alle provocazioni. E andiamo di filato alle 20:10 con Medardo da Pesaro. Buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire a proposito del clochard bruciato a Rimini, sì, eccetera. Però mi ha preceduto un altro ascoltatore. Ha detto più o meno quello che devo dire io. Dica lo stesso, non si preoccupi. Se posso cambiare argomento, parlare ancora di Pietro un attimo? Sì, no, però mi interessa la sua opinione sulla vicenda del clochard. Poi avrà spazio anche su Di Pietro, se vuole. Mi dica, cosa ci voleva dire sulla vicenda del clochard? Io abito qua a pochi chilometri da Rimini e leggendo le cronache quotidiane sui giornali qua del posto ho saputo che questi bravi ragazzi sono stati messi in un centro sociale a lavorare, pare addirittura stipendiati, no? Non vorrei che diventasse una forma di ufficio di collocamento bruciare il clochard, cioè brucio il clochard e trovo un lavoro. Ma guardi, Medardo, bisogna fare qualche rettifica. Io non credo che siano, come dice lei, stipendiati. Abbi pazienza. Spero anch'io, però corre voce così qui da queste parti. No, non corre nessuna voce. Sono agli arresti non domiciliari, ma in comunità. Non sono in contatto tra di loro. Sono stati affidati a strutture di recupero nei dintorni di Rimini. Uno deve assistere un handicappato, un altro un malato di Parkinson, il terzo i barboni aiutati dalla Caritas. Davide Ercolani, che è il PM che segue l'inchiesta, sì, dice: non sono a casa nella bambagia, lavorano tutto il giorno, devono pulire il sedere a gente che sta male, la loro è una condizione severa, la via delle pene alternative è stata sollecitata, eccetera eccetera, anche dal governo in carica. Le pare scandaloso questo? Non è una domanda, è una domanda, eh? No, non è scandaloso questo, io lo accetto anche volentieri. Non accetto da parte dell'opinione pubblica, non ne può niente nessuno, che ci si accanisca su ad esempio stupri che sono aberranti comunque, no? E non su chi a quanto pare diventa lo sport nazionale, brucia, clochard o altro, che non rompono le scatole a nessuno, anche questo. Queste due pesi e due misure da parte dell'opinione pubblica e dei giornali soprattutto, che poi l'opinione pubblica segue molto cosa i titoli dei giornali, ovviamente. E se mi permette dico due cosine su Di Pietro. Dica. Niente. Di Pietro è stato denunciato per quello che ha detto su Napolitano, che tra l'altro Napolitano è un mio idolo, prometto questo. Chissà perché, quando il signor Bossi disse con la signora Venezia la bandiera la mette nel cesso, la bandiera italiana. Ma guardi che è stato, credo che sia ancora sotto, formalmente sotto processo Bossi, credo, non so se esattamente per quella uscita. Ma anche lì ci sono state delle denunce, eccetera, eccetera. Poi, sai, i parlamentari hanno delle coperture istituzionali da questo punto di vista, per l'opinione espressa nell'esercizio della loro funzione. Di Pietro ha detto che non vuole nemmeno avvalersi di questo. Medardo? Però voglio dire, la bandiera appartiene anche a me, no? Quindi offendendo la bandiera, io che sono italiano, vediamo il caos che è stato fatto a Milano per aver incendiato bandiere non nostre. Ora nel momento in cui mi si dice metti la bandiera nel cesso, la mia bandiera, mi sento offeso anch'io. Vabbè, faccia una denuncia allora. Io come italiano faccia una denuncia nei confronti di Bossi. La ringrazio. Grazie. Andiamo a sentire Germano da Bologna. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, io volevo fare un doppio intervento. Il primo, volevo esprimere il plauso alla Presidente Merkel per l'affermazione che lei ha fatto riguardando il nostro Papa, al quale chiede spiegazioni rispetto a questo rispolvero, non trovo un termine diverso, di questi vescovi lefebriani. Finalmente, sì, diciamo un capo di Stato con un pensiero libero e laico. Vero è che come tedesca, ovviamente, data l'argomento, deve prendere debite distanze. Altra cosa invece è Casenglaro. Non so se ho capito bene, lei all'inizio ha detto che già tutto è stato detto. Sì, sentiamo Paola Binetti alla Camera. No, avevo visto la Binetti sul mio schermo sul caso Englaro, ma in realtà era sulla legge elettorale. Che voleva dire sul caso Englaro? Ma sul caso Englaro devo dire che non è vero che è stato tutto detto, anzi, questo è un caso molto significativo. Io da laico non credente devo dire che fin dall'inizio non ho preso posizione, ho cercato di approfondire l'argomento. Sì. La cosa che più mi ha colpito è stata la falsa coscienza da parte di coloro che erano contrari alla volontà di Englaro, dall'altro invece l'onestà intellettuale che ho trovato da parte di coloro che invece erano favorevoli a questo genitore. Per ultimo, la lettera che alcuni giorni fa ha pubblicato la Repubblica rispetto ad un'intervista a Formigoni, il quale reiterava il suo atteggiamento di non voler assolutamente dar luogo al provvedimento. Sì. E dall'altro la lettera che il giorno successivo sempre su Repubblica è stata scritta da un noto neurologo, se non ricordo male, il quale smentiva assolutamente la presa di posizione di Formigoni. Come vede, però, si gira intorno sempre agli stessi argomenti. Per carità, sono molto interessanti. Domani mattina ne parlerà ancora una volta Giuliano Ferrara nella sua trasmissione alle 9 delle ultime ore di Eluana Englaro. Però io credo che se una trasmissione come questa almeno per una sera non se ne occupa, non è che facciamo un torto a nessuno. Sono argomenti importanti ed è importante dibatterne, discutere. A me fa un po' impressione che una persona che conosco molto bene per averla più volte invitata in varie trasmissioni come Beppino Englaro, dopo tanti anni di tra virgolette pubbliche relazioni giustamente e di relazioni con la stampa, adesso dica non ne voglio più parlare, dopo aver concesso, come sapete, solo poche settimane fa un'intervista a Fabio Fazio. Stefano ci chiama da Lodi. Buonasera Stefano. Sì, buonasera. Io volevo fare un commento sulle proteste per la scarcerazione degli stupratori. Sì, sì. Secondo me sono come proteste insensate, nel senso che quelle sono questioni legali e non c'è molto da discutere. Beh, secondo il giudice Laudi che abbiamo sentito prima, non sono solo questioni legali, sono questioni che riguardano anche la sensibilità dei giudici. Sì, certo, però secondo me il fatto che bisognerebbe pensare a queste proteste in un'altra ottica, cioè se i cittadini avessero la certezza della pena e che quindi i colti romeni finiranno in carcere, forse la loro posizione sarebbe diversa. Secondo me in Italia si è perso un po' questo aspetto, cioè che la pena non serve solo al punito come riabilitazione, diciamo, a entrare nella società, ma serve anche ai cittadini onesti per continuare ad avere fiducia in quelle regole che stanno alla base della società. Ma perché sì, altrimenti... Stefano, lei ha ragione, il problema non è tanto la carcerazione preventiva quanto la certezza finale della pena, insomma, e siccome non c'è la certezza della pena ci si scandalizza e ci si indigna per la scarcerazione. È una cosa molto grave perché è quella che secondo me poi garantisce la fiducia dei cittadini nel meccanismo sociale. Certo, la ringrazio. Da questo punto di vista c'è un articolo molto interessante questa mattina sul Sole 24 Ore, perché i politici parlano di certezza della pena e poi i provvedimenti sono pochi. Ma abbiamo un collegamento con uno dei leader della destra, il presidente della destra, formazione guidata da Francesco Storace, che oggi in Parlamento, come suo solito, ha protestato e molto alla sua maniera contro l'approvazione della legge pochi minuti fa sullo sbarramento alle elezioni europee. Teodoro Buontempo, buonasera. Salve, buon lavoro a voi. Allora, buon tempo, buona serata. Sì. Senta, voi dite sostanzialmente un vasto schieramento che naturalmente ha idee politiche diversissime, si va dall'estrema sinistra all'estrema destra, al centro, eccetera, eccetera, è un attentato alla democrazia. Mi spieghi perché? Perché gli sbarramenti esistono in tanti paesi, no? No, intanto, per quanto riguarda l'Italia, si tratta di 7 milioni e mezzo di cittadini che non avranno rappresentanza parlamentare. Mm. E non è cosa da poco. Vabbè, quello è accaduto anche alle politiche, però. No, alle politiche sono stati gli elettori e in forza di un sistema bipartitico imposto all'ultimo momento. Ma la legge era già in vigore. In questo caso, nonostante la legge vigente dica che da 6 mesi prima della presentazione delle liste si possano raccogliere le firme, mentre si raccolgono le firme su delle liste, cambiano le regole del gioco. Secondo, non è vero quello che hanno sostenuto, che in tutta Europa c'è lo sbarramento, perché fino a oggi in 12 paesi, da oggi in 11, escludendo l'Italia, in 11 paesi della Comunità Europea, quindi parliamo di 11 su 27, non c'è lo sbarramento, nessun tipo di sbarramento. No, infatti si dice non in tutti, però ci sono molti paesi che hanno lo sbarramento. Certo, ma ci sono sono alcuni paesi dove per esempio si può essere eletti anche non stando in lista. In altri paesi si può essere eletti stando in lista ma non nella lista bloccata. Ogni paese ha avuto la sua. Perché noi diciamo che questo è un attentato alla libertà e al pluralismo? Primo, perché non si cambiano le leggi e nessun paese del mondo è mai accaduto che si cambi la legge elettorale a 4 mesi dal voto. Secondo, perché se esistesse in Italia la volontà di eliminare i piccoli partiti, i cittadini li eliminerebbero senza votarli. Se c'è necessità di dover fare una legge, non è così. Evidentemente sono i partiti che vogliono eliminare altri partiti. Tenete conto, per esempio, che Casini, quando divenne presidente della Camera, lui prese il 3,8% con la sua UDC e la Lega non raggiunse il 4%. Questo che vuol dire? Vuol dire che non c'è coerenza, che si tratta di una rapina di voti, perché questi partiti, eliminando altri dalla rappresentanza parlamentare, si prenderanno quei seggi. Ma poi, questo mi pare evidente, cioè la volontà dei grandi partiti di ridurre la frammentazione, dunque di portare al Parlamento europeo solamente i loro rappresentanti, o comunque in gran parte i rappresentanti, mi sembra evidente. Poi lei naturalmente... Sì, però vorrei chiedere anche, voglio dire, ma in un paese... Sì. Dove c'è una crisi economica spaventosa, dove sono state annunciate qualche milione di licenziamenti da adesso ad aprile, dove ci sono migliaia e migliaia di precari che resteranno tra qualche mese in mezzo alla strada, chiudono migliaia di piccole aziende artigianali, una crisi spaventosa come questa, c'è un altro Parlamento nel mondo che anziché essere concentrato sulle cose da fare per far uscire il paese dalla crisi, fa una legge per cancellare dei partiti. Guardi, secondo me il ragionamento, Buontempo, da questo punto di vista il ragionamento è questo, che i grandi partiti o comunque le principali forze politiche magari non trovano mai l'accordo e bisticciano su tantissimi temi, quando si tratta invece di cose concrete, cioè consenso e voti, si mettono d'accordo, e da questo punto di vista le do ragione, assolutamente, perché insomma abbiamo sentito il Partito Democratico soprattutto parlare di dittatura eccetera eccetera, i decreti, Berlusconi, la democrazia in pericolo, e poi in 448 hanno fatto l'accordo. Da questo punto di vista sono d'accordo con lei, però le voglio chiedere una cosa, Buontempo. L'impressione dall'esterno, da quello che io sento dagli ascoltatori, è che siccome ci vuole la semplificazione del sistema, le persone escluse dal Parlamento italiano pochi mesi fa vogliano ritornare in sella. Naturalmente non c'è niente di scandaloso in questo, però attraverso appunto poi il finanziamento pubblico eccetera eccetera vogliono ripresentarsi agli elettori. Io credo che le persone e gli elettori abbiano bisogno di semplificazione del sistema anche in ambito europeo, dico, no? Guardi, la semplificazione cosiddetta è una vera e propria truffa, perché oggi abbiamo un PD all'interno del quale Margherita e DS, come ha detto D'Alema, non hanno trovato ancora amalgama. Ogni giorno la torre spara su Veltroni. Abbiamo un Veltroni che ormai è criticato da tutti. Allora dov'è questa compattezza di questi partiti? Abbiamo nel centrodestra, abbiamo AN e Forza Italia che mancano soltanto i forconi l'uno contro l'altro. Vabbè, è un processo faticoso, Buontempo. Quindi voglio dire, eliminare i partiti che direttamente hanno il consenso popolare, per fare poi le correnti all'interno dei partiti con veti incrociati e lottizzazioni, non mi pare che questo porti maggiore lustro alla politica. Ho capito. Un'altra cosa, Buontempo, voglio sapere da lei, che è un grande esperto di cose parlamentari, è stato tantissimi anni in Parlamento, io ricordo che quando lei veniva eletto al collegio elettorale di Ostia, insomma il suo consenso era altissimo, nei famosi e mai dimenticati collegi uninominali, caro Buontempo. Allora, le voglio chiedere una cosa, l'Italia dei Valori come ha votato oggi? L'Italia dei Valori si è uniformata alla scelta, all'accordo fatto tra Veltroni e Berlusconi. Cioè ha votato a favore di questo sbarramento? Ha votato a favore di questo sbarramento perché dietro questo accordo noi abbiamo il consiglio di amministrazione della RAI, ci sarà la legge sul blocco delle intercettazioni proprio mentre... Vabbè, il PD è contrario però alle intercettazioni, e sulla RAI magari l'accordo c'è, sulle intercettazioni sì, no, credo un po' meno. Quello che c'è, tutto quello che c'è, poi sì. Ognuno si prende il suo pezzo. Quindi, sì, ho capito. Ecco, allora, no, ma guardi, sull'accordone io sono d'accordo, magari la pensiamo diversamente, lei pensa che sia una cosa negativa, io penso che magari mettersi d'accordo non è sbagliato. La democrazia è fatta del consenso popolare. Sì. Quando un partito non prende voti è giusto che venga eliminato, ma attenzione a quando si legittima che qualcuno possa dire ad altri se hanno o no il diritto di esistere, perché vedete già vengono criminalizzate le proteste, già nessuno più si occupa di quelle categorie che non fanno numero, che non hanno grandi numeri. Cioè lei dice il rischio è quello di portare sempre più persone fuori, emarginando alcuni partiti, di creare non solo, ma attenzione, perché se quei partiti vengono eliminati dai cittadini, finisce lì. Ma se vengono eliminati con un colpo di mano, come è questa legge, quelle persone possono scegliere anche cattive strade pur di essere politicamente presenti. Ho capito. Senta, un'ultimissima cosa riguarda un'idea che è venuta all'ex tesoriere dei DS Sposetti, che è quella, non so se sia passata, di far accedere al finanziamento pubblico anche in questo caso all'Europa anche i partiti che prendono almeno l'1%. È passato o non è passato? No, assolutamente non è passata. Quindi meno male. Deve dire agli ascoltatori i soldi che non prenderanno i partiti, diciamo, che non raggiungono il 4%. Sì, li prenderanno gli altri. E li prenderanno gli altri. Gli stessi soldi. No, ma questo qua l'abbiamo già spiegato, altre volte. Mi perdoni. Prego. Dire finanziamento pubblico, mai come in questo caso, rischia di diventare improprio. Perché? Quello è un rimborso elettorale. Sì, certo. Dare almeno la possibilità di partecipare anche a formazioni politiche nuove alla battaglia politica, altrimenti siamo al regime. Sì, no, ma ho capito perfettamente. Comunque il monte premi, chiamiamolo così, non cambia e viene diviso tra i partiti che superano il 4%. Buon tempo, la ringrazio. Prego, la ringrazio, buonasera. Hanno fatto anche un affare. Ecco. Ah, beh, da questo punto di vista no, non c'è dubbio. Infatti non capivo la mossa di Sposetti, insomma, è da spiegare. 20 e 29, la ringrazio. Abbiamo saputo da lei, poi controlleremo naturalmente, ma lei è un grande conoscitore, che l'Italia dei Valori, dunque, nonostante credo le parole pronunciate anche da Di Pietro questa mattina, che in realtà erano abbastanza ambigue, ha votato a favore dello sbarramento. Bene, i titoli del TG2 e poi gli ascoltatori. Eluana nella clinica di Udine, dove si procederà al distacco del sondino che l'alimenta. Il medico: sono devastato, ma va fatto. Il Vaticano: così la uccidono. Napolitano: ora serve una legge sul testamento biologico. Anche Schifani sollecita un intervento legislativo. Fini: rispettare la volontà dei genitori, e la politica si divide. Passa alla Camera la nuova legge elettorale per le europee, prevede una soglia di sbarramento al 4%, la protesta dei piccoli partiti. Berlusconi interviene sulle violenze di Guidonia, un errore concedere gli arresti domiciliari, pronti gli aiuti all'economia, e Sussoru dice è un fallito ed è polemica. Consigliere comunale del Partito Democratico ucciso a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Luigi Tomasino colpito dai killer davanti ad un negozio, illeso, il figlio di 13 anni. Bene, andiamo subito a sentire gli ascoltatori. Massimo da Roma, buonasera Massimo. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Per il narcisismo di parlare alla radio mi sono sorbito l'intervento di Teodoro. Buon tempo che mi ha sdraiato, guardi, penso che la soglia debba essere alzata al 10%. Poi questo sottile ricatto di dire ma se delle minoranze non trovano una strada legale troveranno altre vie. Sì, ma insomma non siamo agli anni di piombo, nonostante quello che dice il ministro della giustizia brasiliano. Ma chi se ne frega di questa idea, proprio sono veramente, non posso usare la... sono di Roma. Si sente. Io avevo chiamato inizialmente per questa storia del... Sì, no, mi scusi se la interrompo ancora, però effettivamente questa cosa di minacciare sempre chissà quale chissà quale sfracello o persone, migliaia di persone che passano a, che diventano, non so, extra parlamentari, terroristi del 2009 perché sono esclusi dal Parlamento, francamente è un argomento abbastanza risibile. Comunque. E va bene, e sopportiamo anche questa, tanto noi abbiamo tanta pazienza. No, l'argomento invece di buon tempo della grande spartizione, naturalmente lui la intende in senso negativo, però è vero, del patto, ne parlava anche l'altro giorno un giornale molto snob come è sofisticato, come Riformista, di questo grande patto, magari poi crolla da un momento all'altro sulla RAI, sulla legge elettorale, secondo me... Ma questa sensibilità a lui gli si è sviluppata tutta in questo momento, oppure quando era in Parlamento con il Movimento Sociale prima e Alleanza Nazionale poi l'aveva dimenticata? Che vuole fare? Si cambia nella vita, no? Si cambia nella vita, è vero. Che vuole? Magari allora, per non morire, come diceva una famosa canzone. Mettiamo lo sbarramento al 10, poi Dio provvede. Potrebbero comunque togliere qualche privilegio. Lì a Striscia, quando hanno fatto vedere che c'hanno l'indennità a 3.800 euro per i fanghi e stesa a tutti i familiari, quello un pochino ancora mi stupisce. Comunque io l'intervento lo facevo sulla cosa. Sulla chi? Bernardini, che è andata a trovare quei poveri ragazzi rumeni. Io questi tipi di atteggiamenti non mi piacciono. Saremo la patria del Guicciardini, saremo la patria che convive con il Vaticano, però francamente mi sembra veramente fuori luogo e fuori posto. Io l'altro giorno pure a caldo avevo chiesto di intervenire e avrei voluto fare una provocazione che era quella di invocare una sana ipocrisia. Veramente avremmo dovuto far finta ai carabinieri avrebbero dovuto far finta di non reggere la botta e lasciarli 10 minuti in mano a questi qui. E poi sarò un forcaiolo. No, Massimo, questo mi pare francamente una roba che uno non dovrebbe nemmeno, magari può pensare nel recondito, ma insomma io credo che non possa diventare una legge dello Stato. No, non solo una legge dello Stato, ma non possa nemmeno diventare un qualcosa di esplicito. Sono pensieri che possono attraversare ognuno di noi quando si assiste bene, o quando si leggono alcune cose. Ma sa, io vi sento sempre, la sento come una voce amica. E no, ma la ringrazio. Mi sento ma... di esternare questo mio sentimento che comunque... No, ma lei ha fatto bene, Massimo. Anch'io la sento come voce amica, per il tono di voce, per il tipo di ragionamenti che fa. Magari possiamo non essere d'accordo, però io dico che se lasciamo passare l'idea che è giusto che anche i peggiori stupratori o coloro che compiono dei delitti spaventosi possano essere massacrati in carcere, io credo che stiamo sbagliando tutto e su questo bisogna essere fermi. Poi al di là delle valutazioni che si possono dare sull'opportunità della visita di un deputato subito dagli stupratori, o no? Sì, lei ha ragione, però tra massacrato e compatiti, oppure che dire, che ne so, ci hanno avuto l'infanzia infelice, ci hanno avuto... No, ma nessuno, io credo che veramente di compassione ce ne sia poca nei confronti di queste persone, adesso francamente. Va bene, va bene. Lei ha sentito intorno a questi rumeni della compassione? Io penso di no. Ma e quale sa? Io però, io adesso so che lei ha fatto intervenire la signora Bernardini, però quale... Sì. Impeto intellettuale o di coscienza l'ha portata ad andare immediatamente lì? Beh, gliel'abbiamo chiesto ieri. Lei ha risposto: la Costituzione prevede che le persone debbano essere rispettate in carcere, eccetera, eccetera. La legge prevede che i parlamentari possano andare a verificare se tutto procede regolarmente nelle prigioni italiane e dunque siamo andati a controllare se li avevano picchiati oppure no. Va bene, quindi lei si è sentita in dovere di tra tutte le scelte possibili di fare questo, di andare lì. Ma su questo si può discutere naturalmente, Massimo, su questo naturalmente, ecco, sull'opportunità comunque, di questa scelta lei giustamente insiste, fa bene. Certo, e io comunque tutto qui. E poi un'altra cosa, che un mio sogno sarebbe che nelle vicende civili di tutti noi italiani, francamente, non dovessero sempre intervenire gli uomini del clero, insomma, questo sarebbe un mio sogno, un mondo utopico. Gli uomini del clero è bellissimo e con questo la ringrazio, Massimo. Riccardo, sempre da Roma, buonasera. Gli uomini del clero, bellissimo. Buonasera. Riccardo, dica. Allora, io telefonavo per fare un intervento in merito allo sbarramento del 4% e sostengo purtroppo appoggiare quasi tutto quello che ha detto Bontempo, anche se in linea di massima in genere io sono contrario a... Vabbè, non è d'accordo con Bontempo, insomma, non è un simpatizzante delle idee politiche di Bontempo, però è d'accordo con quello che ha detto sul fatto che questo sbarramento è antidemocratico, è così? Esatto, sostengo che sia antidemocratico in quanto se noi vediamo l'etimologia della parola democrazia, vuol dire potere del popolo e nel potere del popolo bisogna comunque dare un potere di espressione. Sì, d'accordo, Riccardo, le faccio presente, mi scusi se mi intrometto nel suo ragionamento, anche se mi sembra abbastanza chiaro e devo anche andare più veloce perché il tempo sta per concludersi, che ci sono paesi dove per esempio alle elezioni politiche in Francia c'è uno sbarramento del 12,5% nei collegi elettorali, nessuno si scandalizza, non c'è gente che grida allo scandalo eccetera, per cui la questione della democrazia, che significa per forza essere rappresentati in Parlamento, mi sembra sbagliata in nuce. Cristian da Milano, più velocemente, gentili Buonasera. Ascoltatori, perché ci avviciniamo alla fine. Cristian, dica. Buonasera, cercherò di essere rapidissimo. Faccio un esempio personale riguardo al caso Englaro. Io sono finito in sedia a rotelle all'alba di una quindicina d'anni fa. Ho avuto la grossissima fortuna di rialzarmi e ci sono rimasto paralizzato di nuovo circa 5-6 anni fa, poi mi sono rialzato. Fortuna due volte. Però sinceramente trovo allucinante e spaventoso questa continua ingerenza da parte degli uomini del clero, come giustamente sono stati definiti prima, nelle scelte personali della gente, perché bisogna trovarsi in queste situazioni. Il mio unico pensiero era: se io non mi rialzo mi ammazzo, e sinceramente mi avrebbe dato molto fastidio che qualcuno, ammantandosi di un qualche contatto col divino, in cui uno può credere o meno, si possa ritenere nel diritto di definire giusto o sbagliate le mie scelte. Oltretutto, parlando di carità cristiana, vorrei sapere dove è finita la carità cristiana nei confronti della famiglia di questa ragazza che sta soffrendo tanto quanto, e mi sembra una cosa allucinante. Cristian, la ringrazio. A Michele dalla provincia di Crotone. Buonasera Michele, velocemente Michele. Buonasera dottor. Mi faccia un regalo. È stato fatto un gran... Sì. Un gran parlare per l'intervento di Di Pietro, ma io non riesco a capire come mai, perché Di Pietro, oltre ad essere un senatore della Repubblica, è anche il presidente di un partito dell'Italia dei Valori, non è che ha detto allora... che cosa. Ha detto che io ho una grande stima, voglio precisare, per il presidente della Repubblica, sì. Però sullo Alfano, per esempio, poteva sollevare pure, visto che poi è stato sollevato, un problema di incostituzione. Ma non lo può fare il Presidente della Repubblica. Michele, la ringrazio di questo intervento, purtroppo dobbiamo concludere, non è che le voglio togliere la parola. Guardi, secondo me non c'è niente di scandaloso nell'intervento di Pietro a Piazza Farnese, ci sono delle inesattezze, ma questa fa parte della battaglia politica, secondo lui Napolitano poteva intervenire, non c'è nemmeno nessun tipo di offesa. Naturalmente si può giudicare quel mafioso se attribuirlo a Napolitano oppure, come dice Di Pietro, a noi, al nostro silenzio. Fabrizio da Firenze e Angelo dalla provincia di Chieti, voglio finire puntualissimo questa sera alle 20:44:32, dunque li rimandiamo a domani sera 18:30. Ciao.